at it. She ain't never do this before, but she good at it. Said she never made love, but she good at it. She make a nigga feel good when I look at it. I get goosebumps when I look at it. Oh, girl, just wanna have fun with it. Oh, the girl, just wanna have fun with me. These girls ain't really no good for me. Yeah, da da da da da da da da da da da da da da da da da. Yeah, got a new biz that I ain't promoting. Yeah, all of my friends love money doing. Da da da da da. Let me tell you something about my life and every single chain. My diamond rings, the way you walking, the way you talking, it's all because of me and the way I'm all on you. Girl, you know it's true. The way I speak is my melody. Don't you ever think it's another me, girl, on everything. It's a lot on me. I cannot be seen. I cannot be taking apologies. Yeah, they plot on me, cause that bag on me. Yeah, they after me. I got racks on me. Got the stash on me. They gassing me. Yeah. Hoodie on low, but I stay focused. Yeah, it's hard to stay low and everybody know this. Yeah. Look back at it. She ain't never do this before, but she good at it. Said she never made love, but she good at it. She make a nigga feel good when I look at it. I get goosebumps when I look at it. Oh, girl, just wanna have fun with it. Oh, the girl, just wanna have fun with me. These girls ain't really no good for me. Yeah, da da da da da da da da da da da da da da da da da. Yeah, got a new biz that I ain't promoting. Yeah, all of my friends love money doing. Da da da da da da da da da. Ora che fare? Così qua più vado in alto più gli fa male. Gra-ta-ta, pronta a sparare. Devi credere in te stesso, non ti puoi fidare. Yo, baby tu non ci pensare, yeah, yeah. Questo posto è infame, io devo scappare in fretta. Serpa gli angoli, la strada è scura e stretta. Mora non mi posso più fermare. Yo, quello che volevo ce l'ha adesso. Manco stamattina torno presto. Ha vinto l'orgoglio e non ci parliamo per questo. Io non mi guardo indietro, chi si guarda indietro è perso. Hey money money, come tutti voglio farli, yeah, yeah. Mi ricordo dei treni, dei mille pianti. Non mi ricordo quante ne ho scopate. Ma mi ricordo bene di noi assieme sulle scale, yeah, yeah, yeah. Contano i fatti, solo lei sa come farmi, come truccarsi. Ora tutta alla mia porta vogliono entrare, fanculo. E grazie al mio culo se ancora ti ascolta qualcuno. Sopra i muri, muri, vedi buchi, buchi. Fino a Brooklyn, baby, movimenti giusti. Lei si muove giusta, Gucci, Fendi e Burrich. Fra tutto si aggiusta, fumo ad occhi chiusi. You're back at it. Sono sopra un altro mondo, sono spaziale, yeah. She never made love, but she good at it. Faccio gratata, non mi puoi fermare, yeah. Goosebumps when I look at it. Con te non parlo nemmeno, tanto già sai. All the girls just wanna have fun with me. These girls ain't really no good for me, yeah.